Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. La vicenda dei Samsung Galaxy 7 andati in fiamme a causa di un malfunzionamento delle batterie al litio ha attirato l'attenzione sui problemi di sicurezza connessi all'uso di questi dispositivi e sulla necessità appunto di evitare in futuro simili incidenti che potrebbero comportare problemi molto più gravi se invece di capitare a delle batterie da pochi grammi come quelle di uno smartphone dovessero accadere magari a batterie come quelle che servono per spingere un'auto elettrica molto più grandi, molto più potenti. Ebbene, una possibile soluzione al problema è stata messa a punto dal gruppo guidato dal professor, e qui mi affido così al buon senso, Ji Kui dell'Università di Stanford, che su Science Advance ha spiegato di essere riuscito a integrare una sorta di estintore all'interno delle batterie, capace di spegnere un eventuale incendio in poche frazioni, insomma, di secondo. Ci facciamo spiegare tutto da Luca Magagnin, docente di Materials for Electronics del Politecnico di Milano. Buonasera, buonasera Magagnin. Buonasera. Allora, senta, intanto le chiedo, come mai può accadere che una di queste batterie al litio prenda fuoco, addirittura, come è accaduto, esploda? A cosa sono dovuti episodi di questo tipo? Innanzitutto parliamo di batterie agli ioni di litio. Alcuni dei problemi che possono portare all'instabilità di queste batterie sono legati a difetti di produzione e quindi a dei malfunzionamenti della batteria. Possono essere dovuti a dei danneggiamenti meccanici e quindi portare a problemi di cortocircuito della batteria o alla gestione stessa della batteria. Quando per esempio sovraccarichiamo la batteria possiamo avere dei problemi agli elettrodi della batteria. A causa del surriscaldamento. Ecco, questo perché comunque i componenti che si trovano all'interno della batteria al litio sono tutti componenti infiammabili, no? Certamente. L'elettrolita, cioè il liquido che si trova all'interno della batteria, è altamente infiammabile. Può reagire con l'ossigeno atmosferico, anche quello presente nell'acqua, no? Se uno prova a buttarci dell'acqua sopra. Esattamente. Gli elettrodi in alcune situazioni possono diventare instabili, in particolare se la temperatura a cui lavora la batteria si alza. Ok, anche il litio comunque è un altro di quei metalli, anche se lì è mescolato con tante altre cose, che a sua volta può reagire e prendere fuoco. Ecco, veniamo alla soluzione che hanno messo a punto alla Stanford University. I ricercatori della Stanford University hanno introdotto all'interno della batteria un materiale antifiamma, cioè in grado di, nel caso si generassero delle fiamme, di spegnere queste fiamme. L'approccio che hanno utilizzato in sé non è nuovo, nel senso che l'idea di utilizzare sostanze in grado di ridurre la presenza di fiamme è già nota. Ecco, però c'era un problema, no? Anche il materiale, l'antifiamma che hanno utilizzato, che si chiama TPP, è un ritardante di fiamma che viene usato comunemente mescolato nelle plastiche per renderle ignifughe. No? Quindi non è neanche qui l'aspetto innovativo. Sì, esatto. Il materiale è un materiale noto, non può essere disciolto all'interno della batteria, perché altrimenti andrebbe a limitare e a ridurre l'efficienza della batteria. Quello che hanno fatto i ricercatori della Stanford University è introdurre questo antifiamma all'interno di una parte della batteria. Se vogliamo fare un esempio, possiamo pensare a un filo della corrente, sì, quello che abbiamo nelle nostre case, che è fatto da un'anima in rame con attorno un involucro in plastica. Quello che hanno sviluppato è esattamente questo, un involucro in plastica con all'interno, invece di un cuore di rame, il materiale antifiamma, cioè il TPP. Ecco, hanno fatto una sorta di filo, no? Proprio come un filo elettrico con dentro questo TPP, e con questo filo hanno creato una sorta di tessuto, se ho capito bene. Esatto, hanno utilizzato una tecnica di elettrofilatura che consente di creare un filo e allo stesso tempo avvolgerlo in un tessuto. Questo tessuto serve per separare gli elettrodi all'interno di una batteria. Perfetto. Ed è una parte fondamentale della batteria. Chiarissimo, quindi quello che accade in pratica è, se la batteria supera una certa temperatura, questo rivestimento del filo si scioglie liberando il contenuto. Esatto, è così che funziona. L'involucro esterno, essendo un polimero, ha una bassa resistenza alla temperatura, quindi quando la batteria dovesse raggiungere temperature dell'ordine dei 150-160 gradi, il polimero si degrada, lascia uscire l'antifiamma come fosse un vero estintore, come dovessimo pensare all'utilizzo di un estintore, e questa sostanza va a ridurre la presenza delle fiamme che si sono generate. Ecco, secondo i ricercatori 0,4 secondi è il tempo di reazione, diciamo, di questo sistema. Sì, è un tempo molto breve e questo è assolutamente importante per il funzionamento del dispositivo. Sottolineo solo che lo sviluppo è stato fatto su batterie a bottone, che sono le batterie che troviamo tipicamente nelle nostre macchine fotografiche. Nell'orologio, esatto. Sostanzialmente. Quindi tutto lo sviluppo dovrà portare a impiegare questa tecnologia in batterie di grandi dimensioni per le macchine, per gli automobili. Ecco, insomma, il passaggio da una batteria grande come una monetina a una batteria grande come un microonde, per capirsi, non è scontato, ci sarà del lavoro da fare. Esattamente. Grazie Magagnin. Grazie, arrivederci. È tutto anche per questa sera, appuntamento a domani.